Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Dico sempre che sono alla mia quarta vita. Lo dico perché ci sono stati alcuni passaggi che hanno comportato cambiamenti così radicali da poter essere considerati davvero come se appartenessero a vite distinte e separate. Oggi io sono qui e questa è la mia storia. Ciao a tutti, mi chiamo Giorgio, ho 52 anni, vivo a Roma e di mestiere faccio il pubblicitario. Quante vite avete vissuto nella vostra vita? In quante parti è divisa la vostra vita? O se preferite, in quanti capitoli si può suddividere? Quante volte avete chiuso qualcosa e avete cominciato come se ricominciaste da capo, con una nuova storia, un nuovo lavoro, un nuovo posto dove vivere, una nuova famiglia, un nuovo amore, o comunque qualcosa di nuovo, che aveva chiuso un capitolo e ne apriva un altro? 349-238-6666, Facebook del programma e voi siete qui, Radio 24. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24. Sono le 16:07 minuti di un martedì qualunque, no, mica tanto, oggi è martedì 11 settembre, non è proprio un martedì qualunque, di metà settembre, direi. Io sono Matteo Caccia e questo programma è sempre Voi siete qui, è la seconda stagione. Raccontiamo ogni giorno una storia. La storia di oggi è quella di Giorgio, è un po' diversa dalle altre storie che raccontiamo tutti i giorni, perché quello che chiediamo qui è di raccontare un episodio della vostra vita, no? Una piccola storia che abbia un inizio, un sviluppo e una fine e che in qualche modo racconti qualcosa di voi. Quando è arrivato il racconto di Giorgio ed è arrivato, per capire tutti quelli che spediscono il loro racconto, quali sono i tempi, purtroppo, perché abbiamo tanti racconti che arrivano e pochi che possiamo mandare in onda. Il racconto Giorgio, me lo diceva prima fuori onda, l'ha spedito a febbraio del 2012. Sono passati, oggi è il 9, sono passati 7 mesi, l'abbiamo letto quest'estate ed è in onda oggi, cioè 11 di settembre. Insomma, quando è arrivato il racconto di Giorgio mi ha colpito per il titolo, che era Le quattro vite. Non capivo a cosa si riferisse. E poi è semplicemente una sorta di storia della sua vita divisa in questi 4 capitoli. E in qualche modo la storia di Giorgio è una storia esemplare, nel senso che ha cambiato. Non tutti ovviamente hanno avuto la sua vita, non tutti hanno avuto una vita così segnata dai cambiamenti professionali e non affettivi e familiari. Però in qualche modo è una storia esemplare, è una storia anche che ha a che fare con il cadere e col rialzarsi, e quindi quando arrivano queste storie mi piace raccontarle, mi piace leggerle, mi piace sentirle e mi piace raccontarle. 349-238-6666, proprio in quante vite, se avete voglia di rispondere con un sms fate così, dividetela proprio con 1 operaio, 2 padre, 3 marito o 4 divorziato, e magari mi dite anche qualcosa di più, oppure lo scrivete a Voi siete qui, @ Radio24.it. Cristina scrive ad esempio sul profilo Facebook proprio del programma: dunque, mi sono prima diplomata in ragioneria, poi dopo aver fatto domanda come impiegata sono stata assunta come operaia in una ditta che produceva teloni e coperture in PVC, ho venduto fiori, fatto la cameriera, mi sono diplomata come tecnico di laboratorio e restauratrice di ceramiche e ora come interior design, lavoro l'argilla, e scrive sì come in Ghost, perché ci teneva a farci vedere, avere proprio quell'immagine del vaso d'argilla. Con l'argilla cosa si fanno? Vasi, soprattutto. Sul tornio specifica. E propongo complementi di arredo che mostro su progetti in AutoCAD o 3D Studio Max. Boh, insomma, sì, è un software, immagino, sarà tipo AutoCAD, no? In AutoCAD o 3D Studio Max, appunto. 349-238-6666. E nella seconda parte vorrei sentire del programma, vorrei sentire un ospite, sì, definiamolo un ospite, che è uno scrittore, però è anche lui, come Giorgio, è un pubblicitario, è un pubblicitario, lo è stato e lo è in parte. Ed è una persona che ho incontrato quest'estate... niente, in una Sardegna a fare altro, che mi è stata a pelle molto simpatica e che rappresenta un po' un modo di vivere diverse vite quasi tutte in una volta, o comunque dividendolo in settori nell'arco dell'anno e nell'arco della propria vita. Lui si chiama Claudio Morici, è uno scrittore e più tardi lo chiamiamo al telefono. Andrea invece mi scrive sul profilo del programma sempre: sono stato studente, vigile del fuoco, operaio, Light J, che non so cosa sia. Light J. Ah, il light è come DJ, giusto? Cioè, quindi, ma è solo in discoteca, cioè è uno che fa le luci. cioè detto male, è uno che cura le luci in discoteca, ok? Light J, raccoglitore di frutta e ora rappresentante. 349-238-6666. Qualunque e quante siano le vostre vite, se avete voglia di condividerle, quelle di Giorgio sono state 4 e sono qui. Mi chiamo Giorgio, ho 52 anni, vivo a Roma e di mestiere faccio il pubblicitario. Nella mia prima vita, durata per i primi 29 anni, mi sono laureato in geologia e appena finito il servizio militare sono partito come geologo per la Somalia. Lì sono rimasto 6 mesi a seguire i lavori di costruzione di una strada e di un porto. Finita quell'esperienza, sono tornato in Italia, dove ho continuato per altri 2 anni ad andare in giro per la penisola facendo sondaggi, test tecnici su materiali e relazioni. Poi un giorno ho capito che quella non era la mia strada e che tutto sommato fare buchi per terra e rilievi in posti quasi sempre disagiati e neanche pagato particolarmente bene non mi divertiva molto. Così ho deciso di cambiare totalmente percorso di carriera e ho intrapreso la via del marketing e della comunicazione pubblicitaria. La decisione non è stata così semplice, dato che ho dovuto superare la diffidenza di miei genitori, fratelli e amici, che con toni e argomentazioni diverse hanno cercato di farmi desistere a più riprese dal mio proposito. Ma io ero consapevole di potercela fare e deciso a fare il passo. Della geologia mi piaceva soprattutto la possibilità di girare, mi piacevano le scienze della terra in generale, l'oceanografia era stato il mio primo amore in questo ambito. Della pubblicità quello che mi piaceva e che mi continua a piacere è la dinamicità, il fatto di essere un lavoro che è in continuo cambiamento, di poter essere a contatto con tanta gente e anche di poter esprimere della creatività. In quel periodo ho conosciuto anche Elisa, che 7 anni dopo sarebbe diventata mia moglie. E nel giugno dell'89 mi sono imbattuto in un annuncio di ricerca personale. Allora mi sono detto che quello era finalmente il momento per tentare il salto nel vuoto. E così il primo di giugno dell'89 è cominciata la mia seconda vita, come account executive di un'agenzia di pubblicità a Roma. Finalmente mi svegliavo con il desiderio di andare al lavoro per tuffarmi in quello che mi piaceva fare. Erano altri tempi rispetto ad oggi. La rivoluzione del mercato televisivo era in piena espansione. Le possibilità di lavoro molto superiori. Il fatto che io venissi da un'esperienza totalmente diversa non mi spaventava. Ricordo che avevo letto la biografia di David Ogilvy, uno dei padri della pubblicità moderna. E anche lui aveva fatto diversi lavori prima di approdare alla comunicazione. Mia madre comunque per anni ha continuato a pensare che io fossi una specie di rappresentante di commercio e per anni, al macellaio sotto casa, ha continuato a dire che ero geologo. Io però da allora ho proseguito nella mia nuova professione e sono passato in un'altra agenzia, più grande e con clienti più importanti. Nel 95, d'accordo con Elisa, andiamo a vivere a Milano, io per lavorare in un'agenzia internazionale e lei, che era biologa, per fare la ricercatrice allo IEO del professor Veronesi. A maggio del 96 ci siamo sposati e l'esperienza di quegli anni milanesi, dal 95 al 2000, trascorsi tra tanto lavoro ma anche gite in giro per il nord Italia e vacanze memorabili, restano per me indimenticabili. Forse i migliori in assoluto, almeno finora. Nel 99 rientriamo a Roma per seguire nuove opportunità di crescita e di carriera e per stare più vicino a mia madre. Mia madre è mancata nell'agosto del 2000, ma anche se quella perdita è stato un grande dolore, in quel momento io non sapevo ancora che da lì a poco sarebbe finita anche la mia seconda vita. È accaduto esattamente alle 21 del 29 dicembre del 2001. Il giorno in cui Elisa se n'è andata a causa di una malattia che in poco meno di un anno se l'è portata via. Sì, decisamente in quel momento ho sentito che con lei se n'era andata una parte di me per sempre. Così nel 2002 è incominciata la mia terza vita. I primi mesi sono stati un periodo davvero molto complicato. avevo bisogno di tenere occupato il cervello, di limitare al massimo l'autocommiserazione. Il 7 di gennaio ero già al lavoro, perché altrimenti avrei cominciato a dare testate contro il muro. Quando tornavo a casa, la sera, faticavo a dormire. E soprattutto di sabato e di domenica, le giornate mi apparivano terribilmente lunghe. A quel punto ho cominciato a correre e correre, fino a quando non ce la facevo più. Prima 40 minuti, poi 50, poi un'ora. Fino a correre un'ora e mezza, senza fermarmi mai, senza allenamenti specifici. Non so quanto strada abbia percorso. Non mi interessava sapere a che velocità andassi o quanto reggessi la fatica. Non avevo particolari obiettivi di forma o di prestazioni, volevo solo scaricare l'ansia, la paura e il dolore. E soprattutto avevo bisogno di tornare a casa esausto, così da riuscire ad addormentarmi. Mi sono comprato anche una cyclette e un vogatore. Così la sera, quando fuori era buio e faceva freddo, mi mettevo davanti alla televisione e pedalavo o vogavo, fino a quando non ce la facevo più. Il tutto con la voglia e la necessità di rimettermi ancora in gioco, perché, tra l'altro, dopo essere passato dall'agenzia di pubblicità a internet, inseguendo quello che sembrava essere il nuovo Eldorado della comunicazione, a maggio del 2002 mi sono ritrovato anche senza lavoro, per via della crisi in cui l'agenzia con cui lavoravo era precipitata. Io ho continuato a correre. Mi sono dato da fare per trovare una nuova collocazione e nel frattempo ho fatto qualche consulenza e ovviamente correvo. Cerco di capire quello che effettivamente mi sembra istintivamente la scelta migliore da fare. Diciamo che in questo senso tendo a dare ascolto prima alla pancia e poi alla testa e poi chiaramente cerco dei supporti razionali a queste scelte. Finora tutto sommato mi è andata bene e spero che continui così. Per trovare nuovo coraggio, per buttare fuori amarezza e preoccupazione, correvo. Alla fine ho trovato una nuova posizione disponibile da settembre del 2002. E quindi in quell'estate libera mi sono preso il lusso per fare trasferimenti di barche a vela con amici, andare in montagna per una settimana da solo a fare passeggiate, rafting e discese in mountain bike. Fare immersione a Capraia e rifugiarmi un po' a Sorrento, dove c'è la casa di famiglia. Nella nuova agenzia ero stato assunto come direttore clienti. Ci sono rimasto però solo 9 mesi e poi mi sono dimesso, perché quel posto non mi piaceva e non mi piacevano i proprietari. Di buono però c'è stato che lì ho incontrato Beatrice, la mia nuova compagna. Nel 2004, dopo qualche mese di verifiche e assestamenti, ho aperto la mia agenzia di comunicazione, quella di cui sono ancora oggi amministratore. Con qualche difficoltà, perché il momento non è dei più semplici, ma felice di essere dove sono oggi. E nel frattempo, esattamente alle 23:10 del 17 febbraio del 2008, è cominciata la mia quarta e attuale vita. Quel giorno, a quell'ora, è nato Francesco, mio figlio, che sinceramente a 48 anni non pensavo sarebbe più arrivato, e che invece mi ha regalato la gioia immensa di essere padre. A giugno Beatrice ed io ci siamo sposati e oggi ho davvero un tesoro immenso. Un'ottima salute, Beatrice, Francesco, i miei amici, il mio lavoro, il mio pianoforte e la corsa. Cosa potrei volere di più? Sì, io sono qui e oggi sono felice. Quante vite in una vita o quanti capitoli in una vita, nella vita di ognuno di voi, di ognuno di noi, scrive Antonio, che si firma Uomo Felice. 1959, nato povero. 1960, orfano di papà. 1971, seminarista. 75, estremista di sinistra. 76, orfano di madre. 77, droga. 84, lei. 86, primo figlio. 97, terzo figlio e 500 milioni in banca. 1999, di nuovo povero. 2012, uomo felice. Ammazza, Antonio! E che è? Cioè, scrivici una storia immediatamente. Voi siete qui, chiocciolaradio24.it. Guarda, Ma mi basta, sì, appunto, se ce la scrivi tutta diventa un romanzo di Dickens, quindi mi basta un capitolo che sia 71 seminarista, 75 estremista di sinistra, 76 orfano, guarda, quello che vuoi Antonio, però la aspettiamo. Voi siete qui, @radio24.it. Ma ancora, prima vita, studente e addetto pulizie, seconda vita, bersagliere, terza vita, medico specializzando e padre per la prima volta, quarta vita, medico del lavoro e padre per la seconda volta. Luca da Como, ve ne leggo un altro prima di sentire Giorgio. Volevo diventare calciatore professionista, ci ho provato fino ai 18 anni. Poi mi sono messo a fare ciclismo, sono diventato ciclista professionista, ho smesso di correre a 30, ora faccio l'artigiano. Roberto. E poi c'è Teresa che scrive, come si chiama una mamma che non ha più i figli a casa? Ecco, la mia seconda vita. E poi ora con Filippo. Sono tre le vite. Non so chi sia Filippo o Teresa, però direi, e non so come si chiami una mamma senza più figli, tipo genitore orfano, qualcosa del genere, credo. Cioè, orfano genitore. 349-238-6666. Tutte le vite della vostra vita. La storia che abbiamo raccontato oggi erano le quattro vite ed erano di Giorgio. Pronto, Giorgio? Ehi, ciao Matteo, buonasera. Buonasera, come stai? Bene, bene, molto bene. Sono in ufficio, ho ascoltato la trasmissione e complimenti perché nonostante fossero cose che conoscevo, ma insomma mi ha dato una certa emozione sentirle dalla tua voce. Beh, complimenti a te, insomma, la storia è la tua, l'hai scritta tu, e i complimenti vanno soprattutto per il fatto che, cioè, che non molli mai è la cosa più semplice da dire, no Giorgio, leggendo la tua storia. Anche perché al di là appunto di un lutto così grande come la perdita di una compagna, e quella immagino sia la cosa più difficile da cui rialzarsi, tutte queste... perdere un lavoro, poi prenderne un altro, ma licenziarsi, e poi una grande crisi che spazza via tutto. Cioè, ogni volta hai bisogno di trovare delle forze da qualche parte. Dov'è che le hai trovate? Ma diciamo che sicuramente in tempi recenti Beatrice è la persona che mi ha dato e mi dà più forza. Che è la tua compagna? No, vi siete sposati, compagna, giusto? Mia moglie, a giugno, sì, ok. Sì, esatto. In realtà a luglio, perché quando ho mandato la mail è appunto a febbraio, contavano di sposarci a giugno. Per fare delle vicissitudini ci siamo sposati a luglio, siamo okay. Comunque adesso regolarmente sposati, e poi chiaramente l'arrivo di Francesca è stata un'altra bella botta di energia. E invece per quanto riguarda il lavoro, tu sei di fatto sei proprio un pubblicitario che le ha passate, no? Ha passato più o meno non so quante vite abbia la pubblicità da quando è nata, però ne ha passate diverse, sicuramente ne sta vivendo una molto diversa da quella che aveva quando hai cominciato, immagino. Assolutamente sì, sono cambiate molte cose, con l'avvento di internet e dei telefonini si è spostato tutto il gioco, diciamo, proprio sul digital, su internet, Facebook, i social network, insomma è un mondo in continua evoluzione, ma è anche molto bello questo, proprio perché poi c'è una continua dinamicità, bisogna tenersi aggiornati, ma il bello di questo lavoro è proprio che ti fa stare con le antenne sempre dritte. Qual è l'ultima campagna che hai fatto? L'ultima è stata per un'assicurazione online. Faccio nomi chiaramente. Ok. E voi di cosa vi occupate? Di tutto praticamente? Sì, dall'idea creativa allo sviluppo poi della campagna stessa, per cui l'annuncio stampa, lo spot televisivo, lo spot radiofonico, a seconda delle situazioni, okay, del budget. Adesso stiamo preparando la campagna per una linea aerea internazionale. Beh, ma quindi avete un sacco di lavoro, scusami Giorgio. Diciamo che le cose potrebbero andare meglio, ma... Però sempre nella vita. Esatto, cioè non ci lamentiamo. Senti, com'è avere un figlio a 48 anni? È un'esperienza bellissima, un'esperienza davvero stupenda, anche perché io ho sempre pensato che l'obiettivo, diciamo, della vita, lo scopo della vita, è quello di cercare di farne un capolavoro. Quindi cercando di fare al meglio tutto quello che si fa, per diletto, per lavoro, per interesse, per qualsiasi cosa. L'importante è cercare, e ognuno appunto con i propri parametri, di cercare di tirare fuori il capolavoro dalla propria vita. E da questo punto di vista Francesco sicuramente è un capolavoro. Senti, ma ed è vero quello che si dice, che vabbè, insomma, tutti dicono che i figli bisogna farli giovani, e poi però in realtà tutti i figli li fanno ormai in quest'epoca tra i 30 e i 35, tutti, insomma, moltissimi, non so, anche solo guardandosi in giro tra gli amici che ho, li si fa oltre i 30-35. È vera la cosa che poi fai fatica a stargli dietro? Quanti anni hai adesso, scusami tu Giorgio? Allora, io adesso ho 52 anni, Francesco quando è arrivato io ne avevo 48. Quindi, in questo senso anche la corsa probabilmente mi aiuta. Aiuta, ok. Ti tieni l'allenamento, la corsa per il figlio e per tutto il resto. Senti, qual è la prossima vita che hai in serbo? Ma io spero che per il momento di andare avanti così, cioè, non vorrei neanche averne troppe, cioè, vorrei anche un po' di stabilità. Giustamente. Però non si può mai dire, chissà, l'internazionale andare in un altro paese, staremo a vedere. Va bene, Giorgio, io ti faccio in bocca al lupo e ti ringrazio molto per la tua storia. Grazie a voi per l'ospitalità in trasmissione e complimenti. Ciao, grazie ancora. Ciao. Le vite di un'ascoltatrice che non si firma, figlia orfana di padre, ragazza alla pari in Inghilterra, studente Erasmus in Spagna, clown, laureata in lingue, operaia, insegnante, convivente, rifugista e in ultimo madre. Ancora adesso a un anno di distanza, o direi a 2 anni di distanza, quando a qualcuno che non ascolta il programma dico che c'è una parte del programma radiofonico in cui io descrivo una foto, la gente un pochettino mi guarda stranita. Però continuiamo a farlo perché è una cosa che ci diverte. E la foto che ci ha mandato Giorgio oggi e che trovate sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi Siete Qui, è una foto credo alla fine di un allenamento o all'inizio, però no, direi di no perché sembra già sudato. È in campagna, pare, è pronto per andare a correre. Non è da solo, a fianco a lui c'è suo figlio Francesco che ha 4 anni ed è la sua carta vita. Cambiamento. 1. Sostituzione o avvicendamento che riguarda in tutto o in parte la sostanza o l'aspetto di qualcosa o di qualcuno. 2. Nella scherma, passaggio da un legamento a un altro attuato staccando il proprio ferro da quello avversario e ricongiungendolo in diversa posizione. 3. Cambiamento di galoppo in aria, area di equitazione di alta scuola. 4. In elettronica e radiotecnica, cambiamento di frequenza, conversione di frequenza. Etimo, derivato di cambiare. Data, secolo XIV. 349-238-6666 oppure Voi Siete Qui, @radio24.it. Oggi, siccome con la storia che ci ha mandato il nostro ascoltatore, che ci ha mandato Giorgio, abbiamo parlato di come la vita si divide in fasi, in parti, in capitoli, chiamatelo come volete. Il suo racconto, infatti, come vi dicevo quando è arrivato, si intitolava e si intitola Le quattro vite. Io quest'estate ho avuto la fortuna di incontrare ad un festival in cui io presentavo il mio libro e lui presentava il suo, uno scrittore che in realtà fa poi anche molto altro, cioè dire che è scrittore è limitativo, ed è come se in lui, cioè lui mi è venuto in mente perché è come se in lui ci fossero sommate 4, forse anche 5 o 6 vite, tutti in una volta. Lui è Claudio Morici ed è al telefono con noi. Pronto, Claudio? Ciao Matteo, ciao a tutti. Come stai? Tutto a posto. Allora, Claudio, racconto velocemente io quello che fai e poi andiamo nello specifico. Sì, mi hai dipinto un po' come un personaggio con disturbi della personalità, praticamente. però devo dire che in realtà poi ci siamo conosciuti in Sardegna, anche se in realtà abbiamo la nostra conoscenza è avvenuta su un'automobile andando verso l'aeroporto di Alghero. E Claudio mi ha raccontato che in sostanza era lì perché presentava il suo libro che si chiama L'Uomo d'Argento ed è pubblicato da EO, che è il tuo ultimo libro, giusto Claudio? È quello più recente. Claudio però, oltre ad essere un copy, tu sei un pubblicitario in sostanza. Esatto, sì, l'ho fatto tanti anni e adesso lo sto rifacendo. Però a un certo punto Claudio ha preso ed è partito. Devo dire che a differenza di come succede di solito o come si ama dire di solito, tu non è che hai mollato tutto, sei partito, hai mollato una parte. Sì. E te ne sei portata dietro un'altra, giusto? Mi sono portato appresso le briciole che erano più leggere e in altri contesti erano anche sufficienti alla sussistenza. Cioè, quindi in sostanza tu hai fatto questo viaggio che è durato quanto? Credo 4-5 anni. A un certo punto ho iniziato uno dei tanti viaggi miei di 1-2 mesi. Che già facevo, dentro di me sapevo che non sarei più tornato, non l'avevo detto a nessuno, soltanto al mio commercialista. Perché al tuo commercialista, scusami? Per risolvere un paio di questioni, diciamo, che non sto qui a parlare. Ok. E infatti poi dopo sono rimasto lì, facendomi le mie strategie di sopravvivenza, che erano questo tenersi parte del lavoro da pubblicitario e farlo con il computer ovunque mi trovassi. E riuscivi a farlo, Claudio? Riuscivi a lavorare remotamente? Sì. Poi appunto vivendo in posti dove spendevo molto meno, sui 500 euro al mese e c'entravano dentro anche una quindicina di birre a settimana. Ma diciamo compreso di vitto, alloggio e birre, quindi? Sì. Dove sei stato? Dove sei in sostanza? All'est, in oriente, più o meno, sbaglio, visto? Adesso così, diciamo 5 mesi a Città del Messico, 2 a San Cristobal, sempre in Messico, poi in Scozia, a Granada in Spagna, in Portogallo, e poi a Londra, dove ho finito i soldi. La città sbagliata per fare. Sì, direi di sì. Direi di sì. E quindi sono tornato in Italia 5 mesi e poi ho ripreso a Berlino. Sono stato un anno in altri posti. E come li sceglievi i posti in cui andare? Scusa, Claudio. All'inizio era veramente un 100% ispirazione da viaggiatore, a un certo punto invece è diventata una strategia di sopravvivenza vera e propria, quindi c'era anche una comunicazione tra persone che facevano come me riguardo posti molto economici, dove si viveva bene, dove c'erano delle comunità internazionali che vivevano così, e quindi molto scambio, molti artisti, insomma si poteva stare molto bene, quindi era una strategia di sopravvivenza vera e propria a un certo punto. Quindi esiste una specie di zoccolo duro di questi viaggiatori che si spostano e che si incontrano, si danno consigli? La domanda in sostanza è: c'è davvero della gente che fa come te e che gira e in sostanza appunto cerca di sopravvivere meglio possibile in giro per il mondo? Tantissima e sempre di più. Gli italiani aumentano degli altri, però partono da un numero statistico più basso, ma per un australiano, uno statunitense, un inglese, diciamo, è un qualche cosa che rientra all'interno anche delle regole culturali del loro paese. Magari se ne stanno 4 anni in Spagna e poi se ne tornano a Londra e per tutti sono fatti una bella esperienza, ritornano a lavorare come prima o meglio di prima, ecco, cioè, no, diciamo, è un tipo di possibilità inclusa culturalmente, come invece per i paesi latini non esiste. Ma senti, Claudio, quando stavi, però, che so io, tipo hai detto a Città del Messico 5 mesi, no? Giusto? A Berlino quanto? Un anno. Ah, a Berlino un anno, ok. Ecco, quale delle vite lì ha il sopravvento? Cioè, lì che cosa fa? Chiaramente non fai il turista, perché per 5 mesi non fai il turista, no, giusto? Quello che un po' mi distingueva anche un po' dagli altri, ed era la mia, diciamo, il mio modo di passare il tempo e di scandirla, è che io, iniziando questa cosa, proprio da, stavo sull'aereo per il Messico 5 anni fa, e io ho iniziato a scrivere e ho scritto tutti i giorni. Quindi io tutti i giorni per 4 anni ho scritto 4 ore al giorno. Wow, in 4 ore al giorno quanto produci, Claudio? Il primo periodo mi è andata benissimo, perché ho finito un libro in 7 mesi, l'ho venduto a Bompiani e diciamo, questo mi ha dato l'energia e anche, diciamo, un po' di soldi per continuare a fare così. Qual era poi, quel libro? Mi ricordi il titolo dei tuoi? La Terra vista dalla Luna, pubblicato da Bompiani, è uscito ormai 4 anni fa, tre anni fa. E era scritto tutto negli ostelli, scritto tutto in Internet Point o in ostello. Io mi mettevo davanti al computer con la cuffia, mi spedivo da solo a me stesso, mi spedivo il pezzo del romanzo integrato, certo, e poi andavo su un altro computer, mi arrivava il messaggio scritto a me stesso e continuavo. Cioè, così sembra un folle che si aggira per il mondo e si spedisce roba che scrive da solo ogni giorno. Una delle cose divertenti che ha fatto Claudio è che era stata pubblicata anche sulla fotogallery di Repubblica.it, giusto? Mi correggi? Sì, è una cosa che trovate sul suo profilo Facebook, che è Claudio Morici, ovviamente. Claudio, a un certo punto ha cominciato a fotografare le stanze di albergo o per lo più ostelli in cui passava le notti e i giorni, semplicemente fotografando i letti e il suo zaino. E siccome è stato appunto in giro 4 anni, ci sono decine di fotografie con un po' di didascalie, tipo a Quantun Sri Hotel 4,1 euro russa il norvegese, a Kuala Tan Yellow House 3,2 euro, russa sempre il norvegese, e ci sono appunto letti, però devo dire che non avrei mai detto che si poteva capire così tanto di un posto dai letti e dagli ostelli fotografati in giro. Senti, Claudio, io ti ringrazio ancora. Mi ricordi velocemente di che cosa parla L'Uomo d'Argento, che è il tuo ultimo libro? L'Uomo d'Argento si lega a questo discorso perché è ambientato in una città ideale, dove un gruppo di ragazzi decidono di fermarsi e di creare la società perfetta. È tipo un mondo post-crisi economica mondiale, giusto? Esatto. Cioè, poi finisce tutto il lavoro, c'è la crisi della crisi e tutti emigrano in questa città che è l'unica al mondo dove ancora si può ridere o avere amici. Senti, Claudio, io ti ringrazio moltissimo per la chiacchiera e ci sentiamo, spero presto. Va bene, ciao a tutti. In bocca al lupo. Grazie, Matteo. Ciao, Claudio, grazie. Ciao, ciao. E sto giusto guardando le foto di Claudio degli alberghi, quelle di cui abbiamo appena parlato in diretta durante la telefonata, e Dovete guardare, le abbiamo linkate, giusto Tiziano? Le abbiamo linkate sul profilo Facebook del programma, che voi siete qui Radio 24, e anche attraverso il profilo Twitter. E niente, ci sono solo foto di letti più o meno sfatti negli ostelli, negli alberghi e del suo zaino. Però hanno qualcosa di ipnotico, soprattutto farle scorrere molto veloce, anche perché semplicemente sono molte, sono tantissime. 349-238-6666, mi scrive Anna da Milano: anch'io vengo dal mondo della creativo della pubblicità. Poi la mia azienda è andata in Cina e io come seconda vita ho aperto un piccolissimo negozio di prodotti biologici. Quando vai in replica? Non lo so. Non andiamo in replica. Proprio non andiamo. Non andiamo mai? Non andiamo mai in replica? Togli un attimo la base, cioè, ma neanche tipo alle 4 del mattino? No, mai. Benissimo, allora non andiamo in replica, Anna da Milano, però ci sono i podcast del programma, se hai voglia di scaricartela e di ascoltarla. È molto semplice, è proprio a prova della mia mamma che li scarica tutti i giorni, lo dico perché lo ammette lei, dice riesco a scaricarli anch'io, quindi lo scarica chiunque. Andate sul sito di Radio 24 e o attraverso la pagina di Voi Siete Qui o alla voce podcast, scorrete fino in fondo, andate alla V, Voi Siete Qui, e vi scaricate le ultime 5 puntate, disponibili ci sono solo le ultime 5 puntate. A 38 anni decido di chiudere la mia attività commerciale e decido di iscrivermi a giurisprudenza. Quella era la mia prima vita. 2 anni fa, a 43 anni, conseguo la laurea ed ora sto facendo il tirocinio di pratica per fare l'avvocato. Questa è la mia seconda vita. Alberto da Siracusa. E poi l'ultimo messaggio di oggi: a 35 anni smetto di bere, dopo 4 anni smetto di fumare, ora nella mia nuova vita cammino verso Santiago. A febbraio parto da Venezia per là, per il cammino di Santiago. Grazie a Paolino Corleoni, a Tiziano Bonini e a Margherita Ina. Domani c'è una puntata particolare, è una piccola sorpresa, ma chiudiamo con la storia di oggi, che era quella di Giorgio, e anche lui da oggi è un punto rosso su una mappa. Mi chiamo Gabriella, la storia di domani è la mia e parla di una tendenza delle donne lombarde a dire sempre di sì.